La rivoluzione industriale non è sorta, non è l'Afrodite pagana che sorge dalla schiuma, non è semplicemente accaduta, nulla accade senza una causa. E nel mondo umano non si fa nulla che non sia stato fatto da persone vive. Non c'è un progresso inevitabile che controlla gli esseri umani. Tennyson si sbagliava quando diceva che i pensieri degli uomini si allargano con il processo del sole. Il tempo è completamente indifferente agli esseri umani. L'anno 1000 non ha reso i pensieri di un singolo inglese così ampi come lo erano quelli di altri filosofi e scienziati prima di lui, e non c'è alcuna garanzia che lo farà l'anno 2000. La crescita della scienza, il dio pagano degli intellettuali francesi, non ha creato la rivoluzione industriale e prodotto il capitalismo. La scienza non cresce, non esiste. La parola è un nome per qualsiasi conoscenza del mondo materiale che può essere nella testa di persone viventi in un determinato momento. Le energie individuali libere di lavorare, quelle di Edison per esempio, creano questo mondo umano totalmente nuovo e gli uomini di mentalità pagana hanno fatto un dio della somma dei loro sforzi di successo, dimenticando i loro ben più numerosi fallimenti, e l'hanno chiamata rivoluzione industriale. È ora che gli americani smettano di pensare con noncuranza in questi termini e passino ai fatti concreti. Qualsiasi giovane che voglia far progredire l'America ha in sé l'energia necessaria per farlo. Vive nel suo paese, è tutto intorno a lui. La sua energia sta agendo su di esso ora. L'uso quotidiano della sua energia è fare l'America. La generazione che ha reso l'America ciò che è ora sta morendo. Ora, i suoi genitori hanno reso l'America finita e così farà lui. 40 anni fa nessuno immaginava questa America. C'era un meccanico da 40 dollari al mese che lavorava 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana e armeggiava di notte e di domenica nella legnaia dietro la sua casetta in affitto, senza vasca da bagno, senza acqua corrente, senza luce, se non quella di una lampada a cherosene, in un lontano ed economico sobborgo di Detroit. Nemmeno lui immaginava questa America. Non c'erano automobili, né autostrade, né radio o aerei, né film, né edifici alti, né luci elettriche, né dentifricio, né spazzolini da denti, né fontane di bibite, né bibite in bottiglia, né chioschi di hot dog, né scuole superiori, né scarpe basse, né rasoi di sicurezza o creme da barba, né verdure verdi d'inverno, né in scatola, non c'era pane o torte o ciambelle, non c'erano negozi di alimentari, né supermercati. Un'arancia era un regalo di Natale nelle famiglie benestanti. Non c'era il riscaldamento centralizzato e solo i più abbienti avevano la vasca da bagno. Erano di latta o di zinco, rivestite di mogano nelle case dei più ricchi. I ricchi avevano anche le luci a gas. Alcune strade delle città più grandi erano illuminate con lampade a gas. Per i bambini americani la primavera arrivava quando la mamma li lasciava andare a piedi nudi. Nessun genitore moderatamente benestante pensava di lasciare che i bambini consumassero il buon cuoio delle scarpe in estate. Le calze erano di cotone, le lenzuola erano fatte in casa, di mussola cucita al centro, perché i telai non avevano mai fatto mussole larghe come un letto. La madre confezionava tutti i vestiti della famiglia, tranne il vestito migliore del padre, e a volte lo faceva ancora. 40 anni fa, un viaggio di 10 miglia fino alla città successiva, in calesse, a spalla o in treno, veniva pianificato e preparato con almeno qualche settimana di anticipo. L'America è stata trasformata. La trasformazione dell'America è un processo continuo, ormai quasi centenario. Quando gli americani iniziarono la rivoluzione, nessuno se lo aspettava. Thomas Paine e gli altri rivoluzionari del suo tempo non pensavano a cambiare le condizioni di vita. Pensavano ai valori morali. Quando gli uomini poterono agire liberamente, si verificò un'esplosione di energia umana che cambiò tutti i valori della vita e trasformò completamente il mondo materiale. Un piccolo incidente tra centinaia di migliaia illustrerà che cosa è successo. Circa 3000 anni fa, i greci conoscevano il principio del motore a vapore. 2 secoli e mezzo fa, nel 1704 per l'esattezza, un battello a vapore viaggiava con successo sul fiume Elba in Germania. Minacciava la disoccupazione tecnologica dei barcaioli. Il battello a vapore fu bruciato. Il suo inventore si salvò per un pelo e morì affamato in esilio. Gli inglesi non erano così ben governati. Circa 50 anni dopo cominciarono a mettere il vetro alle finestre, cominciarono a togliere dalle loro case i tetti di paglia, marcescenti e perdenti, e a usare tetti di ardesia spaccata. Iniziarono a usare il carbone e a fondere il ferro. Quando Washington era presidente, alcuni inglesi stavano costruendo macchine a vapore. Tutte queste attività, ovviamente, erano più o meno sotto il controllo del governo. Il governo britannico ha protetto, incoraggiato, sovvenzionato e controllato la produzione e la vendita di motori a vapore. 3 anni dopo la resa di Cornwallis a Yorktown, un americano non istruito, un orologiaio, riparatore di orologi e geometra girovago, inventò un battello a vapore. Ne costruì un piccolo modello in una bottega di falegname nella contea di Bucks in Pennsylvania e lo provò su un torrente vicino. Funzionava. Quest'uomo vide che i battelli a vapore avrebbero trasformato il mondo. Sognava battelli a vapore transatlantici. Agendo come gli uomini erano sempre stati costretti ad agire o ad essere criminali, ottenne una lettera di presentazione a un politico e, grazie al favore di quest'ultimo, presentò una petizione al governo americano. 30 agosto 1785. Signore, il sottoscritto chiede di sottoporre ai piedi del Congresso un tentativo di facilitare la navigazione interna degli Stati Uniti, adattato in particolare alle acque del Mississippi. La macchina che ha inventato questo scopo è stata esaminata da diversi gentiluomini di cultura e ingegno che l'hanno approvata. Essendo così incoraggiato, desidera sollecitare l'attenzione del Congresso su un modello approssimativo che ha ora con sé, in modo che, dopo aver esaminato i principi su cui funziona, possano essere in grado di giudicare se merita un incoraggiamento. Ed egli, come in dovere di fare, pregherà sempre. John Fitch, a Sua Eccellenza il Presidente del Congresso. La lettera è stata letta e deferita a una commissione. La commissione non ha mai riferito in merito. John Fitch procedette pazientemente nella maniera più antica, da politico a politico. Un'abitudine mentale millenaria presuppone che gli uomini interessati ai principi politici e al potere politico siano naturalmente gli uomini che decidono tutte le questioni industriali ed economiche. Era un uomo comune, senza legami con le alte sfere, ma i tempi erano semplici. Raggiunse Washington, Madison, Monroe, Patrick Henry, Franklin. Ognuno di questi gentiluomini lo ascoltò con cortesia e gli fornì gentilmente delle presentazioni ad altri politici. Per anni, in condizioni di crescente povertà e frenesia, John Fitch presentò una petizione al Congresso, ancora e ancora e ancora. Inoltre, ogni anno presentò una petizione alle legislature di Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey e Pennsylvania. Stava cercando di dare la sua invenzione al governo. Il ministro spagnolo si offrì di acquistarla per la Spagna, ma John Fitch si rifiutò di venderla a un paese straniero. Nella sua petizione al Congresso del 1787, John Fitch scrisse: «In questo momento non desidero ricevere emolumenti per il mio uso privato, ma per destinarli al beneficio del mio paese. Non desidero alcun premio per farne un monopolio per me stesso». La legislatura del New Jersey, tuttavia, forse per liberarsi di lui e forse per scherzo, gli concesse il monopolio del trasporto su battello a vapore nel New Jersey. Era un po' come dare a un uomo di oggi il monopolio del trasporto sulla Luna. Ma John Fitch era serio. La concessione di un monopolio da parte del governo suggeriva un profitto e in 6 settimane John Fitch trovò 40 uomini disposti a mettere del denaro per costruire un battello a vapore. Nell'estate del 1790 il suo battello a vapore era in servizio regolare sul fiume Delaware. 2 volte alla settimana trasportava passeggeri tra Filadelfia e Trenton alla velocità inaudita di 8 miglia all'ora. Il successo era assicurato. Lo stato di New York concesse a John Fitch il monopolio del trasporto su battello a vapore, così come il Maryland, il Delaware e la Virginia. Ma i profitti sfuggono agli azionisti. Il motore e le pale necessitavano costantemente di riparazioni e modifiche. John Fitch sperimentava e migliorava. L'imbarcazione non aveva ancora iniziato a ripagarsi da sola quando una tempesta la fece naufragare. Il monopolio della Virginia era scaduto e gli azionisti avevano perso ogni centesimo investito. Non volevano rischiare altro denaro sui battelli a vapore. Per 8 anni John Fitch cercò di raccogliere capitali, deriso, schernito, compatito come un povero pazzo. Alla fine, Tornò nella natura selvaggia, costruì una capanna isolata e remota nel Kentucky e lì, da solo, realizzò un modello in ottone ben rifinito, lungo 1,5 metri di un motore ferroviario con 4 ruote flangiate che scorrevano su binari di ferro. Poi si tolse la vita. 2 anni dopo, il cancelliere Robert Livingston, che con Monroe aveva acquistato la Louisiana, ottenne che la legislatura di New York trasferisse il monopolio di John Fitch a Robert Fulton e lo estendesse per 20 anni, a condizione che entro 2 anni Fulton facesse circolare un battello a vapore sul fiume Hudson a una velocità di 4 miglia l'ora. Robert Livingston e Nicholas Roosevelt, ricchi americani con una potente influenza politica, sostenevano Fulton. Fulton aveva provato a far navigare un battello a vapore sulla Senna a Parigi, il suo motore lo aveva affondato. Ora intendeva utilizzare un motore inglese. Per 4 lunghi anni questi uomini di potere politico esercitarono ogni possibile influenza politica sui membri del consiglio privato del re. Il cancelliere Livingston era troppo sicuro del suo potere presso la corte britannica. I 2 anni passarono. Egli dovette convincere la legislatura di New York a rinnovare il monopolio ventennale di Fulton. La difficoltà, ovviamente, è che gli uomini di governo devono usare l'autorità economica per scopi politici. La loro funzione è quella di usare la forza nei loro paesi per fermare le azioni che la maggioranza non approva o non difende e nelle relazioni con altri paesi per fermare le azioni che minacciano i loro propri paesi. La politica si occupa di questioni relative all'uso corretto della forza. La diplomazia internazionale è un uso della minaccia di guerra. Una grande potenza è un paese abbastanza forte da essere temuto in guerra. Gli uomini di governo sono politici, i loro interessi sono politici, il loro lavoro giusto e necessario è la politica. Se i loro interessi e il loro lavoro fossero quelli di costruire battelli a vapore, non sarebbero negli uffici del governo. Il governo britannico non aveva alcun motivo politico per permettere a un produttore inglese di vendere un motore a vapore a un americano. In quel momento stava concludendo un accordo diplomatico con il governo olandese, offrendo un motore a vapore per un'alleanza di guerra. Cosa offrì il governo degli Stati Uniti al governo di Sua Maestà per un motore a vapore? Niente di niente. Il cancelliere Livingston era un politico da tenere in considerazione, ma James Monroe, ministro degli Stati Uniti presso la corte di San Giacomo, rispose con fermezza alla richiesta del cancelliere che il ministro chiedesse al consiglio privato del re di permettere la vendita di una macchina a vapore a Robert Fulton. Disse che la situazione diplomatica del momento non rendeva consigliabile una tale richiesta da parte del governo degli Stati Uniti al governo della Gran Bretagna. Il ricorso successivo è la corruzione. La corruzione dei funzionari governativi era abituale e prevista. Gli americani pensano che la corruzione nella politica americana sia una novità. In realtà si tratta di una forma di sopravvivenza in via di estinzione nei tempi pre-rivoluzionari. Il vecchio squeeze del funzionario cinese e il bakshi del turco erano abituali nell'America coloniale. I governatori reali si lamentavano pubblicamente quando le loro entrate da tangenti erano scarse e chiedevano ufficialmente al re di colmare il deficit. Il reddito da tangenti apparteneva a qualsiasi funzionario europeo, così come il privilegio di affrancatura appartiene a un membro del Congresso americano. Non conosco i mezzi con cui il cancelliere Livingston e Nicholas Roosevelt ottennero finalmente il permesso del governo di Sua Maestà di acquistare una macchina a vapore. Lo ottennero e nel 1807 il battello a vapore viaggiò a 4 miglia all'ora da New York alla tenuta di campagna del cancelliere Livingston, Clermont, sull'Hudson e poi fino ad Albany. Gli abitanti del New England videro immediatamente le stupende possibilità offerte dai battelli a vapore. Si rivolsero subito alle loro legislature per ottenere protezione. Le fortune e gli operai erano in pericolo. I battelli a vapore avrebbero rovinato gli sloop fluviali, le compagnie di navigazione, tutte le industrie di navi a vela del New England. Avrebbero buttato fuori dal lavoro tutti gli uomini di fiume, i marinai, i carpentieri delle navi, i costruttori di corde. Avrebbero distrutto tutto il New England. La legislatura del Connecticut escluse i battelli a vapore dalle acque del Connecticut. Il Senato del Rhode Island tassò tutti i passeggeri dei battelli a vapore. e limitò per quote il numero di passeggeri autorizzati a sbarcare nei porti del Rhode Island. I governi hanno sempre protetto i loro sudditi proprio in questo modo. Questo è l'unico modo in cui l'uso della forza da parte del governo può proteggere il benessere economico di un uomo, impedendo le attività economiche di altri uomini, cioè bloccando il progresso economico. Ma tali leggi non potevano essere applicate qui, erano incostituzionali. Gli uomini del veliero devono aver sentito il terreno solido cedere sotto di loro. 12 anni dopo che il Clermont di Fulton aveva navigato a vapore sull'Hudson, i battelli a vapore spaventavano gli indiani nel lontano Nebraska e il primo battello a vapore attraversava l'Atlantico dal Nuovo Mondo all'Europa. 3.000 anni prima, gli uomini conoscevano il principio della macchina a vapore. 115 anni prima, un battello a vapore aveva solcato con successo le acque europee. Per 50 anni il governo britannico incoraggiò, protesse, sovvenzionò e controllò la produzione di motori a vapore. In 12 anni gli americani, non incoraggiati, non protetti, non aiutati e non controllati, coprirono le acque occidentali con battelli a vapore e lanciarono la prima nave a vapore che abbia mai attraversato un oceano, la prima sfida del dinamico nuovo mondo allo statico vecchio mondo. La velocità era stata creata di nuovo. Gli uomini liberi attaccavano di nuovo il tempo e lo spazio come solo i saraceni avevano fatto prima. Per la seconda volta nella storia, l'uomo si è avventurato sulla conoscenza scientifica e l'ha usata con vigore per attaccare gli handicap materiali e i nemici della vita umana sulla Terra. La differenza tra il vecchio mondo immobile e il nuovo mondo dinamico non è una differenza di energia umana naturale, né di desideri umani, non è una differenza di materiali disponibili. Tutta la Terra è ricca di materie prime. All'inizio non era una differenza di conoscenza, è una differenza nel vigore, nell'efficacia dell'energia umana, nel sottomettere questa Terra non umana ai bisogni e ai desideri umani. Questa efficacia è possibile solo quando gli individui possono esercitare la loro libertà naturale e il suo risultato è la rivoluzione industriale. Dove sono ora i velieri? Dove sono le fortune investite? Dove sono i posti di lavoro dei velieri, dei cordai, dei carpentieri, delle navi, degli operai dell'ottone, dei marinai, dei capitani e dei piloti? Dove sono i campi di lino e canapa che un tempo fiorivano nel New England e i mercati agricoli di canapa e lino? Erano più antichi della storia stessa. Questi investimenti di denaro, questi mercati, questi posti di lavoro esistevano già prima delle guerre di Troia. Dove sono ora? Sono nel vecchio mondo. I quadrimotori a vele spiegate solcano ancora il Mar Nero per raggiungere il porto di Istanbul e le giunche cinesi, dagli occhi tondi, navigano come banchi di pesci sul mare di Sulu fino al Borneo. Le vele Latin movimentano ancora il traffico sul Nilo e le flotte di pescatori escono sotto vele colorate da ogni porto del Mediterraneo. Solo su un oceano, tra questi stati e l'Inghilterra, i velieri sono scomparsi, completamente spazzati via in mezzo secolo. La rivoluzione industriale distrugge, è un flusso di energia umana vivente, spietato come la natura stessa, che distrugge per creare e crea per distruggere. Rende ogni forma di ricchezza impermanente come la vita. Roma, Parigi, Vienna, Norimberga sono solide rocce. Decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, questi edifici resistono. Ogni città americana è una fonte di energia. Come sorgono e cadono gli incredibili edifici che si estendono nel cielo, più tremendi, più belli, più alti e più vivi di qualsiasi acropoli, piramide o castello mai immaginato. Considerate come sono scomparsi i velieri. Gli uomini delle navi a vela, non protetti, lottarono con le unghie e con i denti per le loro fortune e il loro lavoro, ma erano condannati. Gli americani si avvicinarono ai battelli a vapore con un'esplosione e un grido di gioia. Era fortunato il battello a vapore che durava sulle acque interne abbastanza a lungo da ripagarsi da solo. Gli americani volevano la velocità, i capitani rivali gareggiando tra loro e incitati selvaggiamente dai loro passeggeri ammocchiavano legna e catrame e versavano il vapore nel battello. Ottenevano velocità e facevano esplodere le caldaie affondando il battello. A quei tempi viaggiare su un battello a vapore era un vero e proprio sport. Molti passeggeri vivevano per raccontarlo, ma raramente un battello sopravviveva 2 anni. I battelli a vapore avevano i fiumi e i grandi laghi. I battelli a vapore si accaparrarono il traffico costiero. Un'altra nave a vapore e un'altra ancora attraversavano l'Atlantico dall'America all'Europa. Molti americani stavano migliorando i motori a vapore. Logicamente non c'era limite alla potenza del vapore. Gli uomini delle navi a vela non avrebbero mai potuto aumentare la potenza dei venti. Per 30 anni resistettero, combattendo accanitamente la concorrenza dei battelli a vapore e perdendo anno dopo anno. Il vapore era velocità, gli americani volevano la velocità, la passione per la velocità stava rovinando gli uomini delle navi a vela, non potevano cambiare i venti, dovevano cambiare le loro navi. John W. Griffiths, progettista navale americano, lo fece, capovolse la prua del veliero. Quando il suo nuovo progetto, il Rainbow, scivolò nel North River, i newyorkesi lo guardarono con l'orrore che oggi proverebbero se vedessero l'Empire State Building capovolto. Le prue delle navi erano sempre state delle bocce. Galleggiavano, si alzavano in cima alle onde, rimanevano sulla superficie dell'acqua, erano sicure. La prua della Rainbow si incurvava verso l'interno. La prua era affilata come un coltello. Avrebbe tagliato l'acqua, con il vento nelle vele si sarebbe buttata a capofitto sul fondo del mare. I marinai guardarono e indietreggiarono. Navigare su una cosa del genere, direttamente verso il deposito di Davy Jones? Griffiths non intendeva che questa nave si sollevasse sulle onde. Ogni salita e discesa era una perdita di velocità. Progettò il Rainbow per fendere le onde e continuare ad andare avanti velocemente. Una ciurma di uomini spericolati, decisi a tutto, la portò attraverso i Narrows, diretta a Canton, in Cina. Un viaggio di andata e ritorno durato un anno. 6 mesi e 14 giorni dopo, la Rainbow entrò nel porto di New York, proveniente da Canton. Era una nave bagnata, prendeva ogni mare sui suoi ponti, ma mai da quando Dio ha creato i mari c'era stata una tale velocità. 6 mesi e 14 giorni fino a Canton e ritorno. Le navi americane Clipper hanno conquistato il commercio marittimo mondiale, sottili strisce di ponte che fendevano le onde sotto ettari di tela alti 15 piani, macinavano miglia, 400-500 miglia al giorno. Gli inglesi erano inorriditi, protetti come erano dall'economia pianificata che aveva trasformato gli americani in contrabbandieri e ribelli. I commercianti marittimi britannici stavano perdendo il loro commercio. In ogni porto che non fosse britannico, le navi clipper americane non protette entravano sotto il loro naso e portavano via i carichi. Non solo le navi dei clipper erano più veloci, le navi britanniche erano ormai di seconda categoria e lente. I capitani Yankee erano anche più veloci. Non avevano regole e regolamenti né burocrazia. Ogni capitano Yankee valutava la situazione, faceva i suoi calcoli, faceva il suo prezzo e caricava il carico. In tutti i porti del mondo, tranne quelli britannici, le navi dei Clipper entravano e uscivano, mentre le navi britanniche giacevano vuote e i commercianti britannici vedevano con tristezza i carichi portati via. La City, gli uomini d'affari di Londra erano disperati. C'era ovviamente un solo rimedio, la guerra. Il commercio britannico doveva essere protetto. La polizia britannica, l'esercito britannico erano la sua unica protezione. Era sicuro ora, solo nei porti britannici, se solo i porti di tutto il mondo fossero stati britannici. Ma gli uomini del governo britannico pensavano alla marina, la marina britannica da cui dipendeva l'esistenza dell'impero. Le incredibili navi Clipper Yankee riempivano i mari. Dall'ultima guerra che l'Inghilterra non aveva vinto, la potenza marittima americana era aumentata enormemente. Nella prossima guerra, questa nuova marina americana potrebbe spazzare via la marina britannica, la vita stessa dell'impero mondiale della piccola isola. Il Parlamento discusse a lungo e seriamente. Situazioni disperate richiedono rimedi disperati. Gli inglesi avanzarono e difesero con coraggio nuove idee, per le quali sarebbero stati trasportati nelle colonie penali 20 anni prima. La prima reazione alla rivoluzione americana era stata il terrore in Inghilterra, soppressione della libertà di parola e di stampa, sospensione dell'habeas corpus, libri bruciati, uomini imprigionati perché sospettati di avere opinioni repubblicane, pena di morte per la partecipazione a un'assemblea di più di 12 persone anche in una casa privata. Ma il terrore era ormai finito. I diritti dell'uomo di Thomas Paine, soppresso, aveva venduto più di 100.000 copie nelle isole britanniche. Adam Smith aveva pubblicato La ricchezza delle nazioni. Molti inglesi avevano ricondotto il governo civile al suo fondamento nella natura fisica e morale dell'uomo. Si alzarono in Parlamento e indicarono i fatti americani. Cosa avevano creato le navi? Cosa aveva creato le navi Clipper? Non il governo americano, non la protezione, ma la mancanza di protezione. Cosa rendeva la Marina britannica ora di seconda categoria? La sicurezza, il riparo, la protezione offerta dalle leggi britanniche sulla navigazione. Nel 1849 il governo britannico gettò il commercio britannico in pasto ai lupi, abrogò i Navigation Acts e aprì i porti britannici al mondo. Il risultato fu una catastrofe. Le navi Clipper americane si aggiudicarono il commercio indiano e si portarono via il commercio nei porti nazionali dell'Inghilterra, mentre le navi britanniche, ormai prive di protezione, aspettavano per settimane sulla costa cinese e i loro comandanti imploravano carichi per l'Inghilterra. I Clipper americani, intanto, provenienti dalla California e diretti nel New England, fecero scalo a Hong Kong, si accaparrarono un carico completo di tè a un prezzo doppio rispetto a quello richiesto dagli inglesi e 97 giorni dopo lo scaricavano a Londra. Tutti gli appelli al patriottismo dei mercanti di tè britannici fallirono. Le foglie di tè non sono fedeli a nessuna bandiera. A 97 giorni da Hong Kong sono più profumate nella tazza di quanto lo saranno 2 mesi dopo per il bene di qualsiasi impero. La disperazione spingeva i costruttori di navi sul Clyde. In pochi anni i clipper di Aberdeen gareggiarono con quelli yankee sulle rotte del commercio del tè. Ogni tanto un clipper di Aberdeen arrivava al traguardo con minuti o ore di vantaggio. Le navi americane clipper aprirono i porti britannici al libero commercio, mezzo secolo di contrabbando e ribellione americana e di costosi blocchi inefficaci, 7 anni di guerra in America e la perdita delle 13 colonie e tutte le argomentazioni valide e sensate dei liberali e degli economisti inglesi non riuscirono a far crollare l'economia pianificata britannica. Ci riuscirono le navi Clipper americane. Furono il colpo finale che fece crollare l'intera struttura pianificata. Il grande movimento di riforma inglese del XIX secolo consisteva interamente nell'abrogazione di leggi. Non c'era nulla di costruttivo in esso, era completamente distruttivo. Fu una distruzione dell'interferenza del governo negli affari umani, una distruzione della cosiddetta protezione, che in realtà è una restrizione dell'esercizio dei diritti umani naturali. In quel periodo della metà del XIX secolo di massima libertà individuale che gli inglesi abbiano mai conosciuto, essi crearono la prosperità e la potenza dell'impero britannico durante il lungo e pacifico regno di Vittoria. E a questa libertà, prosperità, potenza e pace la nave americana ha contribuito più di ogni altra cosa. La rivoluzione industriale che fa parte della rivoluzione americana è un potere liberatorio nella vita umana. Per sua natura rende gli uomini liberi, per sua natura combatte ed elimina l'uso della forza sugli individui. Gli schiavi incatenati ai remi sotto la sferza spingevano le galee romane. Gli ingegneri devono essere individualmente autocontrollati, autonomi, personalmente responsabili per portare una nave moderna attraverso l'oceano. Avete mai visto la sala macchine di un transatlantico moderno? Pulita come un laboratorio, dipinta di bianco, raffreddata d'aria? I contadini dell'Assia in Germania, quando combatterono contro gli americani, furono venduti e comprati come bestiame. Si muovevano in fila come automi. Ogni uomo, per paura delle frustate e della morte, con gli stessi movimenti obbediva a circa 16 ordini quando le file caricavano, miravano, sparavano una raffica. Quando il loro principe diceva mangiate la paglia, loro mangiavano la paglia. Ma oggi i soldati giapponesi sono a Formosa per addestrarsi ad agire in modo autonomo, indipendente, e il sistema di Hitler deve insegnare ai singoli privati tedeschi ad essere autocontrollati, autosufficienti e responsabili, perché ora i tiranni devono usare gli strumenti che gli uomini liberi hanno creato, motociclette, carri armati e aerei che obbligano gli uomini ad agire come uomini liberi. Ogni schiavitù presente oggi nel mondo è un residuo dell'antica schiavitù. L'uso della libertà naturale dell'uomo crea la rivoluzione industriale e crea questo nuovo mondo in cui gli uomini, in cui gli individui devono usare la loro libertà personale. Il cancelliere Livingstone aveva, a nome di Robert Fulton, il monopolio ventennale delle imbarcazioni a vapore dello Stato di New York. Nicholas Roosevelt pare avesse un brevetto che gli dava il monopolio della ruota a pale laterali. Qual è stato l'effetto di questo monopolio capitalistico sullo sviluppo dei battelli a vapore? Gli americani si opposero immediatamente al monopolio. Ad Albany, alcuni uomini formarono una società per costruire battelli a vapore e farli navigare sull'Hudson, indipendentemente dal monopolio di Fulton. Fulton chiese ai tribunali di New York un'ingiunzione per fermarli. Il cancelliere Livingstone spinse inoltre Fulton a ottenere dal governo federale il brevetto di un battello a vapore. In realtà Fulton non aveva inventato nulla, ottenne il brevetto, ma c'era una debolezza nascosta. Per ottenerlo dovette giurare di aver inventato la ruota a pale laterali. Nel complesso, sembrava meglio ottenere una legge più forte. Il cancelliere Livingstone la ottenne dalla legislatura di New York. Questa legge dava a Fulton il diritto di sequestrare qualsiasi battello a vapore rivale come se gli appartenesse e fosse una proprietà rubata. Obbligava i tribunali di New York a concedere a Fulton un'ingiunzione contro qualsiasi compagnia rivale ogni volta che ne avesse fatto richiesta e fissava la pena per il proprietario di un battello a vapore rivale a una multa di $2.000 e un anno di reclusione. I proprietari di Albany varavano i loro battelli a vapore sull'Hudson. Un altro uomo gestiva un battello a vapore sul lago Champlain. Essi fecero riferimento alla Costituzione federale, che vieta al governo americano di emanare una legge ex post facto, cioè dopo che il fatto è avvenuto. Avevano costruito i loro battelli prima che la legislatura di New York approvasse questa nuova legge. Gli americani dichiararono che il governo non aveva il diritto di concedere monopoli. In tutte le taverne denunciarono il cancelliere Fulton e la loro legislatura e, cosa ancora peggiore della denuncia, non vollero salire sui battelli a vapore di Fulton. E il signor Cadwallader Colton di New York, un rispettabilissimo gentiluomo che vedeva con avversione la mancanza di rispetto della bassa plebaglia nei confronti del cancelliere Livingstone, vide con i suoi occhi il loro comportamento. Nell'estate del 1811, racconta, era un passeggero a bordo del Paragon, allora nuovo e di recente costruzione, che, si confessa, sotto ogni aspetto, e in particolare per quanto riguarda la sistemazione e la velocità, superiore ai battelli Albany. Il cancelliere Livingstone era a bordo e ricordo che anche il signor Jacob Barker e sua moglie, e credo il signor Walter Brown, ora senatore, erano tra i passeggeri, che in tutto erano 18. Siamo partiti qualche minuto prima di uno dei battelli Albany. Un guasto al nostro macchinario ci ha fermato e ha permesso alla nave Albany di proseguire. Avrà avuto più di 100 passeggeri a bordo. I suoi ponti erano assolutamente affollati. Vorrei che in quel momento aveste potuto vedere il cancelliere e sentire le sue riflessioni. La polizia e i tribunali stavano tuttavia riuscendo a ostacolare la costruzione di battelli a vapore negli stati orientali. Pochi uomini potevano permettersi le lunghe e costose battaglie che gli uomini di Albany combattevano nei tribunali. La Corte Superiore si schierò a favore del cancelliere Livingstone e il presidente della Corte Suprema, Kent, tuonò dal banco. Si chiede se sia possibile proibire l'ingresso di questi battelli a vapore in questo stato o il loro utilizzo al suo interno. Rispondo di sì, così come possiamo proibire l'ingresso o l'uso di schiavi o di animali nocivi o di un libro osceno o di merci infettive o di qualsiasi altra cosa che il legislatore riterrà nociva o sconveniente. Nel frattempo, il cancelliere pensava a un monopolio sul Mississippi. Il governatore Claiborne della Louisiana, in visita a New York, ebbe un'interessante conversazione con il cancelliere e Fulton, e a suo ritorno la legislatura del territorio di Orleans concesse alla compagnia di Fulton il monopolio esclusivo dei battelli a vapore sul basso Mississippi. Non appena la notizia arrivò, Fulton costruì un battello a vapore a Pittsburgh. Nel 1811, Nicholas Roosevelt e la sua famiglia, con un equipaggio di 6 persone, si imbarcarono per New Orleans e Era il primo battello a vapore sulle acque occidentali e quando il capitano fece rombare il suo vapore attraverso il tubo di scappamento, i coloni lungo le rive del fiume sentirono il corno di Gabriele e si prepararono a incontrare il loro creatore ora. L'anno successivo il prodigio raggiunse New Orleans con grande soddisfazione della città. 12 mesi dopo, un concorrente era sull'Ohio, non ancora coperto da alcun monopolio di Fulton eccetto il brevetto federale. 4 anni dopo, Henry Shreve della Virginia era sul Mississippi con il Washington, un battello a due piani azionato da motori ad alta pressione. Fece il viaggio di andata e ritorno tra Louisville e New Orleans. Andata e ritorno, si badi bene, in 41 giorni. Tutta Louisville si rallegrò a lungo. Le signore e i signori di Louisville diedero a Henry Shreve un'accoglienza sfavillante e una cena durante la quale, imperdonabilmente influenzato dall'occasione e dal vino, Henry Shreve rispose a un brindisi con la previsione che un giorno un uomo avrebbe viaggiato da Louisville a New Orleans in 10 giorni. Tutti lasciarono correre con indulgenza. Lo sceriffo sequestrò la Washington. Gli avvocati di Fulton erano in tribunale e chiedevano un'ingiunzione per fermare l'attività del battello. 20 uomini lungo i fiumi occidentali iniziarono cautamente a costruire battelli a vapore e poi si fermarono. Nicholas Roosevelt li aveva avvertiti con annunci sui giornali orientali. Nessun'altra persona negli Stati Uniti ha un brevetto, tranne me, per l'invenzione delle ruote verticali. Avendo ottenuto un titolo legale per l'uso esclusivo di battelli a vapore con tali ruote, con la presente diffido tutte le persone dall'utilizzarle in futuro senza la mia licenza. Le persone o le società che in seguito utilizzeranno tali ruote senza la mia licenza saranno perseguite ai sensi della legge del Congresso per danni pari ai profitti della barca. Le licenze saranno vendute da me a prezzi moderati e garantite. Nicholas J. Roosevelt. Evidentemente i soci avevano litigato. Chi poteva sapere cosa avrebbero deciso i tribunali e che possibilità aveva un uomo comune in una battaglia tra quei giganti, il cancelliere Livingston e Nicholas Roosevelt? 2 anni passarono nel dubbio, poi, oh gloriosa notizia, i tribunali della Louisiana rilasciano il Washington. Un monopolio statale non è costituzionale, solo il governo federale può concedere monopoli sulle acque interstatali. 5 anni dopo i battelli a vapore andavano da Pittsburgh a New Orleans, da St. Louis alle praterie occidentali, oltre gli insediamenti. La lotta nei tribunali è andata avanti per anni, ma gli occidentali corrono il rischio. Certo, proverò qualsiasi cosa una volta, diamine, questo è un paese libero. Un uomo al massimo può perdere.